Lettera del prelato, settembre 2009. Carissimi, Gesù mi protegga, le mie figlie e i miei figli. Inizia un altro mese ricco di feste della Madonna, che come sempre riempiono di gioia il cuore di quanti sanno di essere figli suoi. Per me poi vi è un ricordo particolare, perché l'8 settembre, festa della Natività di Nostra Signora, chiesi l'ammissione all'Opus Dei. Ho sempre pensato, come capita a tutti, a una carezza di nostra madre nel giorno del suo compleanno. Nel commentare la chiamata dei re magi che avanzano verso Betlemme guidati da una stella, San Cosimo Maria assicurava: tale è anche la nostra esperienza. Anche noi abbiamo notato che nell'anima, a poco si accendeva una luce nuova, il desiderio di essere pienamente cristiani. L'ansia, direi, di prendere Dio sul serio. Se ognuno di noi volesse ora raccontare ad alta voce l'intimo sviluppo della sua vocazione soprannaturale, tutti riconosceremmo che è stata una cosa divina. Ringraziamo Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo e Maria Santissima, dalla cui mediazione ci vengono tutte le benedizioni del cielo, del dono che assieme a quello della fede è il più grande che il Signore può concedere a una creatura, il dono di un impulso efficace per giungere alla pienezza della carità, convinti che è necessario e non solo possibile raggiungere la santità anche in mezzo alle attività professionali e sociali. San Bernardo, appassionato cantore di Maria, spiega mirabilmente in uno dei suoi discorsi dedicati alla Vergine: togli il sole che illumina il giorno. Come potrà esserci giorno? Togli, Maria, stella del mare, di un mare indubbiamente grande e spazioso. Cosa rimarrà se non l'oscurità che tutto offusca, ombra di morte e densissime tenebre? Con il più profondo della nostra anima, quindi, con tutti gli affetti del nostro cuore e con tutti i sentimenti e desideri della nostra volontà, veneriamo Maria, perché questa è la volontà del Signore, che volle che ricevessimo tutto tramite Maria. La tradizione spirituale ha chiamato Maria Onnipotenza Supplicante, perché quel che lei chiede a suo figlio ci viene infallibilmente accordato. Nostra Signora conosce molto bene quel che serve per la gloria di Dio e per la nostra crescita spirituale, e questo invoca per noi. Facciamo dunque ricorso con grande fiducia e maggiore intensità alla sua intercessione in questo mese, che, come vi dicevo, è costellato di celebrazioni mariane. Da ciascuna di queste feste possiamo trarre, come l'ape dai diversi fiori, gli ingredienti per produrre con l'aiuto di Dio il miele, alimento spirituale di cui, come figli piccoli, tutti abbiamo bisogno. Ci incoraggia la nostra stessa Madre del Cielo, con parole ispirate poste sulle sue labbra dalla liturgia. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza, eterna. Sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, e il possedermi vale più del favo del miele. Dinanzi a un tesoro così grande, chiediamoci se ci rivolgiamo frequentemente a nostra madre durante la giornata, nelle necessità grandi e in quelle piccole. Viene al nostro cuore e alle nostre labbra quella tenera invocazione: Madre, Madre mia, che affiorava continuamente sulla bocca di San Cosimo Maria. La chiamiamo con urgenza e l'abbandono del figlio che reclama le cure materne. La prima festa mariana del mese è la Natività della Vergine, l'8 settembre. Molte volte avremmo considerato che con la nascita di Maria cominciò ad albeggiare sulla terra il giorno della salvezza, perché da lei ortus est solum iustitiae, Christus Deus noster, nacque Cristo, sole di giustizia, nostro Dio e Salvatore. I profeti avevano intravisto questo giorno memorabile, e la Chiesa lo sottolinea scegliendo come prima lettura della messa un passo di Michea riguardante Betlemme, la città dove avrebbe dovuto nascere il Messia. Questi, ci dice l'oracolo, e commenta Benedetto XVI, sarà discendente del re Davide, betlemita come lui, ma la sua figura eccederà i limiti dell'umano. Le sue origini, dice, sono dall'antichità, si perdono nei tempi più lontani, sconfinano nell'eterno. La sua grandezza giungerà fino agli estremi confini della terra, e tali saranno anche i confini della pace. Conclude il Papa: l'avvento di questo consacrato del Signore, che segnerà l'inizio della liberazione del popolo, viene definito dal profeta con un'espressione enigmatica. Quando colei che deve partorire partorirà? È così la liturgia che, scuola privilegiata della fede, ci insegna a riconoscere nella nascita di Maria un diretto collegamento con quella del Messia, figlio di Davide. Nelle arcane parole di Michea si intravede un'allusione alla profezia di Isaia che il Vangelo applica a Maria. Ecco, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele, parole che si compirono nel momento dell'Annunciazione, quando il Verbo divino si incarnò nel purissimo grembo di nostra madre, opera dello Spirito Santo. La lettura evangelica ci propone l'ampio testo della genealogia di Gesù secondo Matteo, per concludere con l'annuncio del concepimento del Signore. Presenta la storia di Israele a partire da Abramo come un pellegrinaggio che con salite e discese, per vie brevi e per vie lunghe, conduce infine a Cristo. In questo lungo elenco di personaggi dell'Antico Testamento, insieme a uomini e donne che si mostrarono fedeli a Dio, non mancano altri che non si comportarono così. Compaiono i grandi patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, che risposero lealmente alle richieste divine, e figurano anche capi, re e persone comuni che si comportarono da grandi peccatori. Alcuni di questi si pentirono, altri no. Lo stesso fra le donne, insieme a Ruth, amata da Dio, ne vengono citate altre che lo offesero. Benedetto XVI sottolinea che la genealogia, con le sue figure luminose e oscure, con i suoi successi e i suoi fallimenti, ci dimostra che Dio può scrivere diritto anche sulle righe storte della nostra storia. Dio ci lascia la nostra libertà e tuttavia sa trovare nel nostro fallimento nuove vie per il suo amore. Dio non fallisce. Così questa genealogia è una garanzia della fedeltà di Dio, una garanzia che Dio non ci lascia cadere, un invito ad orientare la nostra vita sempre di nuovo verso Lui e a camminare sempre di nuovo verso Cristo. Era uno degli insegnamenti che San José María invitava a trarre da questo passo. Ci faceva notare che certamente gli evangelisti non poterono scrivere tutto quel che sapevano di Gesù, perché avrebbero avuto bisogno di molti volumi per poter raccogliere in modo completo le parole e i fatti della sua vita. Tuttavia, fra le scene che scelsero, non mancano avvenimenti peggiorativi per i medesimi apostoli, ma tutti racchiudono un insegnamento. E proseguiva: nel considerare la genealogia di Gesù, troviamo uomini e donne, antenati di Giuseppe e di Maria, che a volte non furono un modello. Con questa lezione, certamente la Madre di Dio vuole che consideriamo che lei, la tutta pura, immacolata, ci accetta con le nostre manchevolezze. E quando ci avviciniamo a lei, a Gesù, con la coscienza pura, con la volontà ricolma di buoni desideri, allora tutto il passato non conta più. Possiamo rifare la nostra vita e per questo, lungo la giornata, dovremo rettificare la rotta più di una volta. Sono pensieri che in questo anno sacerdotale invitano a promuovere anche fra i confessori un ampio apostolato per diffondere la necessità del sacramento della riconciliazione e ringraziare per questo strumento che ci ottiene il perdono dei peccati donato alla Chiesa dal Signore. Sono considerazioni che ci riempiono di ottimismo e di serenità, perché ci aiutano a comprendere che Dio, pur non volendo le nostre debolezze, non se ne stanca. I nostri peccati, i nostri difetti, quando ci pentiamo delle nostre mancanze e chiediamo perdono, ricorrendo, se necessario, al sacramento della penitenza, non potranno separarci da Lui. Il Signore desidera attrarci costantemente al Suo amore mediante la misericordia. Voglio che voi ed io, ripeto con parole di San José María, abbiamo questa visione di lotta e non dimentichiamo che nella vita interiore è necessario combattere senza scoraggiarsi. Che non ci perdiamo d'animo quando nel cercare di servire Dio dobbiamo rettificare non una, ma molte volte. 4 giorni dopo la Natività, il 12 settembre, si celebra la festa del Dolce Nome di Maria. Quanta gioia avvertiamo nel chiamare nostra madre col suo nome. Dobbiamo portarlo sempre nel cuore e sulle labbra, specialmente quando l'anima si ritrova sballottolata dai venti delle tentazioni e delle difficoltà che il Signore può permettere per accrescere la nostra umiltà e per risvegliare la nostra più completa fiducia nella sua onnipotenza. In questi momenti di prova può fare a capolino una certa mancanza di speranza e può diminuire la voglia di continuare a lottare. È il momento di guardare con più decisione, con perseveranza, alla Stella Maris, alla Vergine Maria. Ascoltiamo di nuovo San Bernardo, in un suo testo molto noto: se insorgono i venti delle tentazioni e ti incagli fra gli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Seguendo i suoi tempi non ti smarrirai, invocandola non perderai la speranza, pensando a lei non cadrai nell'errore. Appoggiato a lei non scivolerai, sotto la sua protezione non avrai paura di niente, con la sua guida non ti stancherai e con la sua protezione giungerai a destinazione. Così tu stesso sperimenterai con quanta ragione fu detto e il nome della Vergine era Maria. Con il poderoso aiuto di Maria saremo sempre vincitori, anche se talvolta sperimenteremo il fallimento nelle scaramucce della lotta quotidiana. Maria ci segue incessantemente e quando ode il suo nome pronunciato dalle nostre labbra subito accorre per proteggerci. Madre, chiamala forte, forte, ti ascolta, ti vede forse in pericolo e ti offre, Santa Maria tua madre, con la grazia di suo figlio, la consolazione del suo grembo, la tenerezza delle sue carezze, e ti sentirai rinfrancato per la nuova lotta. La Vergine accanto alla croce, il 15 settembre, ci parla del sacrificio nascosto e silenzioso. Meditiamo e ammiriamo la sua integrità nel momento della sofferenza e del dolore. Gesù si sente consolato dalla presenza discreta e amorosa di sua madre. Maria non grida, non si agita affannosamente, sta in piedi accanto al figlio. Impareremo così, figli e figlie mie, che la fortezza di perseverare accanto alla croce, accanto a Cristo in croce, è condizione e garanzia di abbondanti frutti soprannaturali. Il ricordo del comportamento di Nostra Signora deve servirci per rettificare nell'ora della sofferenza fisico-morale, anche quando un impulso di ribellione cerca di farsi spazio nel profondo dell'anima. Vi invito a rinnovare allora la considerazione che tante volte formulava San José María e che lo aiutò a portare a compimento la missione affidata da Dio. Tu lo vuoi, Signore? Anch'io lo voglio. Inoltre, come non ricordarci nel medesimo giorno dell'amatissimo Don Alvaro? Invochiamo la sua intercessione in questo nuovo anniversario della sua nomina a primo successore di San José María, perché ci ottenga da Dio la serenità e la pace dell'anima che lui sapeva diffondere intorno a sé in ogni momento, specialmente nei momenti di tensione o difficoltà. Infine, il 24 settembre è la memoria liturgica di Nostra Signora della Mercede, alla cui invocazione fece ricorso San José María in tempi cruciali della storia dell'opera, sicuro che lei si sarebbe impegnata ad ottenere le grazie, le mercedi, di cui c'era bisogno per meglio servire le anime. Chiediamole anche noi, con questo titolo così materno, i doni soprannaturali di cui oggi hanno bisogno la Chiesa e questa piccola parte di Chiesa che è l'Opus Dei, così come ciascuna e ciascuno di noi. Non dimentichiamoci di pregare fiduciosamente in questo anno sacerdotale, insisto di proposito, per le vocazioni sacerdotali, per la santità di tutti i ministri sacri. All'interno di questa supplica riservate un posto speciale ai vostri fratelli aggregati, cui conferirò l'ordinazione presbiteriale a Torre Ciudad il 6 settembre prossimo. Come vi ricordo ogni mese, abbiate molto presente nella vostra preghiera quotidiana il Papa e tutti i suoi collaboratori nel governo della Chiesa. Preghiamo con maggior fervore il Dominus conserve teum et vivice teum et beatum fascia teum in terra, che eleviamo tutti i giorni al cielo nelle nostre preci. Facciamo compagnia al Papa, in modo particolare durante il viaggio nella Repubblica Ceca, dal 26 al 28 di questo mese. Dinanzi all'immagine di Nostra Signora della Provvidenza a Porto Rico e dinanzi alla Madonna di Guadalupe in Messico, ho pregato con tutte e con tutti. Abbiamo potuto sostare dinanzi al trittico della cattedrale di Colonia, dove San José María celebrò diverse volte la Santa Messa e rese grazie per il sacrificio del Calvario, adorando il Signore e affidandosi con forza all'onnipotenza supplicante Nostra Madre Santa Maria. Figlie e figli miei, nei paesi in cui lavoriamo apostolicamente ci attende un abbondante e lieto lavoro di anime. Per questo desidero comunicarvi che il 15 agosto scorso, nel rinnovare la consacrazione dell'Opus Dei al cuore dolcissimo di Maria, ho manifestato a Nostra Madre che desideriamo fare nostra la supplica di San José María a Loreto nel 1951, perché lo zelo per l'umanità intera ci consumi quotidianamente. Con il più grande affetto vi benedice vostro padre Javier.